Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Giuseppe Garibaldi, poema autobiografico, a cura di David Riondino, voci recitanti di David Riondino e Paolo Bessegato, accompagnamento musicale bandistico della Filarmonica San Vitese, diretta da Chiara Vidoni, direzione musicale di Fabio Battistelli. Sulle tue cime di granito io sento di libertà de Laura e non nel fondo corruttur del regge, o mia selvaggia, solitaria caprera. I tuoi cespugli sono il mio parco, e l'imponente masso è un rifugio sicuro e disadorno, ma non infetto da servili. I pochi abitatori tuoi ruvidi sono, come le rocce che ti fan corona, e come quelli alteri e disdegnosi di piegare il ginocchio. Il sol concerto sode della bufera in questo asilo, dove né schiavo né tiranno alberga. Qui non passeggia l'impennato e ritto vario dipinto sgherro, lo strumento vile di chi comanda. Ai tuoi dirupi non approda il polputo, i delicati non consente i calzari il fier macigno che copre la deserta, e l'aspro irsuto spino di seta le dorate giubbe non consente, e la mensa all'appetito del monsignor non è adeguata. Qui tranquillo il mio pensiero spazia tra le vicende del passato e posa spesso sui campi insanguinati in ambo gli emisferi la causa degli oppressi. Ovunque ardente io propugnai, e i re di tutto il mondo invano han teso trappole, e l'anima immacolata l'ultima battaglia sospira in cui decidere la sorte dell'Italia e di tutti, finché il mondo sia libero dal morbo del tiranno. Cara memoria dei compagni, a voi mi collega la mente, l'Atlantico sorvola e cerca invano sulle sponde un ricordo che segni ove cadeste per liberare l'altrui patria, e Italia salutaste cadendo. O mio Rossetti, fratello di sventura, all'oceano quando fidammo e libera bandiera primi sciogliemmo, di marica allerta l'occhio correa sull'onde e 100 prede soffrian, ricche ed inermi. Il vil metallo meta non fu degna di noi, ma il santo nome di Libertade. Corsaro. Lanciato sull'oceano con 12 compagni a bordo di una galopera, si sfidava un impero e si faceva sventolare per i primi in quelle meridionali coste una bandiera di emancipazione, la bandiera repubblicana della Rio Grande. Una sumaca carica di caffè fu incontrata all'altura dell'Isola Grande e predata. Un passeggero brasiliano della sumaca, all'imbarcarmi io sulla stessa, mi si presentò supplichevole e mi offrì in una scatola 3 preziosi brillanti. Io glieli rifiutai, siccome ordinai non si toccassero gli affetti individuali dell'equipaggio e dei passeggeri. Gli imperiali, che disprezzati ci avevano sinora, cominciarono a sentire la qualche importanza nostra nella laguna ed impiegarono i loro numerosi legni da guerra a perseguirci. La vita che si faceva in quella classe di guerra era attivissima, piena di pericoli per la superiorità numerica del nemico e la di lui potenza in ogni ramo guerresco, ma nello stesso tempo bella e molto conforme all'indole mia, propensa alle avventure. Essa non era limitata alla marina soltanto, noi avevimo a bordo selle, cavalle ne trovavimo ovunque in quei paesi ove sono abbondantissimi, e quando lo richiedeva il caso noi eravamo trasformati non in brillante, ma in temibile e temuta cavalleria. La gente che mi accompagnava era vera ciurma cosmopolita, composta di tutto e di tutti i colori, come di tutte le nazioni. Gli americani per la maggior parte erano liberti, neri o mulatti, e generalmente i migliori e i più fidati. Fra gli europei avevo gli italiani, in tutto 7 su cui potevo contare. Il resto era composto di quella classe di marinai avventurieri conosciuti sulle coste americane dell'Atlantico e del Pacifico sotto il nome di Frères de la Côte, classe che aveva fornito certamente gli equipaggi dei filibustieri, dei bucanieri, e che oggi ancora dava il suo contingente alla tratta dei neri. Eri pur bella, o di Colombo terra avventurosa, e l'ospital tuo seno al proscritto progesti, ivi trovammo non quiete, no, perché della malnata dei tiranni genia anche gli immensi non difettan tuoi campi, ma una spada per combattere gli infesti, ed una patria non di rovine seminata, un cielo come d'Italia, abitator fratelli e donne impareggiate. Le stanzias ove per prossimità la laguna e per i comodi e per grata accoglienza noi approdavamo con più frequenza erano quelle di Donna Antonia e di Donna Anna. Io non so se influito nella mia immaginazione abbia l'età mia, predisponendomi allora all'abbellimento di ogni cosa, siccome giovane ed inesperto comunque sia, io posso assicurare che nessuna delle circostanze della mia vita mi si presenta al pensiero con più fascino, con più dolcezza di quella passata nell'amabilissimo consorzio di quelle signore e delle care loro famiglie in casa di Donna Anna. Massimamente era per noi un vero paradiso. 3 fanciulle, una più vezzosa dell'altra, facevano l'ornamento di quel sito felice, ed una di loro, Manuela, signoreggiava assolutamente l'anima mia. Io mai cessai d'amarla, benché senza speranza, essendo essa fidanzata a un figlio del presidente. Io adoravo il bello ideale in quell'angelica creatura, e nulla avea di profano l'amor mio. In occasione d'un combattimento, ov'ero stato creduto morto, io conobbi non essere indifferente a quell'angelica creatura, e ciò bastò a consolarmi dell'impossibilità di possederla. D'altronde, bellissime sono le Rio Grandensi in generale, come bella è la popolazione. Non indifferenti erano pure le schiave di colore che si trovavano in quei compitissimi stabilimenti. Pria di lasciar l'americano lido, ad altra terra io devo un cenno, un segno che mi ricordi ai prodi, intemerati figli del continente, all'oceano, quando prima affidai l'avventurosa, tempestosa mia vita, alle ospitali sponde approdai di Rio de Janeiro, ivi un impero, e schiavi, e insoffrenti popoli del servaggio, il fier vessillo repubblicano mi affidarono, e il sciolsi primo sull'oceano, le terre toccai del Rio Grande, dove tremenda ferveva in egual lotta tra le immense falangi dell'impero e di valenti di libertà campioni. Asilo e ferro trovai tra questi ed imparai sì come si combatte e si vince, e a non contare se son molti i nemici. 14 contro 150. Era una mattinata di nebbia. Io stavo seduto vicino al fuoco, ove cucinavasi la colazione, e prendevo mate. Era cucina di campagna, cioè all'aria aperta. Quando tutt'assieme, che mi sembrò sul mio capo, odo un tremendo tocco di carica e di degheglio. E vedo irrompere, girandomi indietro, una folla di cavalieri nemici. Ebbi appena il tempo di alzarmi e guadagnare l'entrata con tutta l'agilità di cui ero capace, che già una lancia nemica aveva forato il mio poncho, cioè il mio cappotto americano o mantello. Fortuna nostra che, essendo stati in allarme tutta la notte, trovavansi tutti i nostri fucili carichi ed appoggiati alla parete nell'interno del locale. Solo in quel primo momento io cominciai a scaricare fucili e a rovesciar nemici. Oh, vorrei ricordare il nome di tutti quei valorosissimi uomini, in numero di 14, che combatterono per varie ore contro 140 nemici, uccidendone e ferendone molti, sino a liberarsene completamente. Fecero contro di noi un fuoco contro il portone principale, ma invano affollarsi contro le pareti tutto in giro, e invano salirono sul tetto distruggendolo e precipitando sulle nostre teste rottami e fascine incendiarie. Dal tetto furono sloggiati a fucilate o a colpi di lancia. Da feritoie praticate da noi nelle mura se ne uccisero e ferirono molti. Poi, per fingere molta gente, noi intuonammo l'inno repubblicano del Rio Grande. Guerra, guerra, guerra! Fuoco, fuoco, fuoco! Contro sbarbaros tirannos e también contro patricios che non sono repubblicanos! Alzando la voce il più possibile. Due dei nostri più forti brandivano una lancia ad ogni portone e ne mostravano fuori il ferro, ciò che certamente rallentava negli assalitori la voglia di caricarci. Verso le tre pomeridiane ritirossi il nemico, avendo molti feriti, tra cui il capo con un braccio rotto. Lasciò sei cadaveri intorno al galpon ed altri a varie distanze. Noi ebbimo 8 feriti dei 14. Alla estancia di donna Antonia, una fanciulla, Manuela, a 12 miglia di distanza chiedeva delle mie nuove con molto interesse e io ne ero felice. Sì, bellissima figlia del continente, io ero felice di appartenerti comunque fosse tu, destinata donna a un altro. A me serbava la sorte un'altra brasiliana, unica per me nel mondo, che io piango oggi e piangerò tutta la vita. Quella pure mi conobbe nella sventura, naufrago, e più che del mio merito, forse della mia sventura si invaghì e a me la consacrò per sempre. Il valoroso del deserto Centauro, ove si pugne per la sua terra, per la donna sua, non conosce perigli. Il suo destriero lo nutre e la foresta lo ripara dall'intemperie. Egli a padron non serve e libertà preferisce alla vita. Quanto è bello lo stallone della Pampa! Le sue labbra sentiranno già mai il freddo ribrezzo del fieno e la lucidissima schiena, già mai calcata dal fetido sedere dell'uomo, brilla lo splendore del sole come un diamante. Quanto è bello lo stallone della Pampa! La sua splendida ma non pettinata criniera batte i fianchi quando lui, superbo, raccogliendo le sparse giumente, fuggendo la presunzione dell'uomo, avanza alla velocità del vento. Il naturale suo calzare, mai imbrattato nella stalla dell'uomo, è più lucido dell'avorio, e la ricchissima coda svolazza al soffio del vento pampero, riparando il generoso animale dal disturbo degli insetti. Quanto è bello lo stallone della Pampa! Vero sultano del deserto, sceglie la più vaga delle odalische, senza il servile ministero della più degradata delle creature, l'eunuco. Chi si farà un'idea dell'emozione sentita dal corsaro di 25 anni in mezzo a quella fiera natura vista per la prima volta oggi, 20 dicembre 1871, rannicchiato al focolare, irrigidito nelle membra, io ricordo commosso quelle scene di una vita passata in cui tutto sorrideva al cospetto del più stupendo spettacolo che abbia veduto. Io sono decrepito, ma dove saranno quei superbi stalloni, tori, gazzelle, struzzi che tanto abbellivano, vivificavano quelle amene colline? I loro discendenti pascoleranno senza dubbio quei ricchissimi pascoli, finché il vapore e il ferro giungano ad accrescere la ricchezza del suolo, ma a impoverire codeste meravigliose scene della natura. Quanto è bello lo stallone della Pampa! Naufragio. Alle 8 circa pomeridiane facemmo vela da quel punto con piccola brezza da mezzogiorno che venne mano a mano crescendo sino a diventar bufera. La pericolosa situazione in cui trovavasi il piccolo legno minacciato di essere sopraffatto dalle onde e rovesciato da un momento all'altro fece concepire la determinazione di avvicinare la costa ed approdarla comunque fosse. ma infuriando sempre più la bufera ed il mare, noi fummo travolti da un terribile maroso. Io mi trovava in quel momento alla sommità dell'albero, sperando di scoprire in un punto della costa ove approdare con meno pericolo. Il legno fu capovolto sulla destra e io fui lanciato perciò da quella parte a una certa distanza. Luigi Carniglia, il coraggioso nostromo, che trovavasi al timone al momento della catastrofe, era rimasto aggrappato al bordo dalla parte non sommersa. Sventuratamente, un giacchettone di kalmuk assai pesante lo serrava talmente imbevuto d'acqua che egli, dovendosi tenere per non essere portato via dal mare, trovavasi nell'impossibilità di liberarsene. Me ne fece un cenno e io corsi in soccorso dell'amico del cuore. Avevo nella saccoccia del pantalone un piccolo coltello di manico bianco. Lo misi alla mano e con gli sforzi di cui ero capace principai a tagliare il colletto che era di velluto. Avevo finito di tagliare il colletto e con uno sforzo ancora io lo scuciva e stracciava il maledetto, quando un maroso con orrendo fracasso avviluppò e schiacciò bastimento e quanti individui a quello afferravansi. Io fui scaraventato nel fondo del mare come un proiettile e quando ricomparvi stordito dal colpo e dai vortici che mi soffocavano, era scomparso lo sfortunato amico mio per sempre. Un momento dopo io galleggiai, chiamai, non vedendolo ricomparire, e chiamai disperatamente, ma invano. Il mio amico d'infanzia era rimasto travolto nei gorghi di quell'oceano che non aveva temuto di varcare per raggiungermi e per servire la causa di un popolo. I cadaveri, i 16 compagni, ebbero la stessa sorte ingoiati dal mare. Essi furono trasportati dalle correnti a 30 miglia di distanza verso il settentrione e là, sepolti nelle sabbie della costa. Tra i 16 trovavansi 6 italiani, io, settimo, solo mi ero salvato. I superstiti, in numero di 14, l'uno dopo l'altro, tutti avevano approdato. Invano tra loro cercai un volto italiano. Morti tutti. Mi sembravo solo nel mondo. Io vaneggiavo e quasi mi pareva pesante questa esistenza salvata con tanta fatica. In questo periodo di tempo ebbe luogo uno dei fatti primordiali della mia vita. Io giammai avevo pensato al matrimonio e me ne credevo inadeguato per troppa indipendenza d'indole e propensione alla carriera avventurosa. Avere una donna, dei figli, sembravami una cosa interamente disdicevole a chi si era consacrato assolutamente ad un principio che, tutto che eccellente, non mi avrebbe permesso, propugnandolo col fervore di cui mi sentivo capace, la quiete e la stabilità necessarie ad un padre di famiglia. Il destino decideva in altro modo. Io, con la perdita di Luigi Edoardo e degli altri miei conterranei, ero rimasto in un desolante isolamento. Sembravami di essere solo nel mondo, nessuna intimità coi nuovi compagni, non un amico di cui sempre ho sentito il bisogno nella mia vita. Il cambio di condizione era sì di un modo sì inaspettato, orribile, che io ne ero profondamente affetto. Che sempre la considerai la più nobile delle creature e che ne dicano è infinitamente più facile di trovare un cuore amante tra esse. Io passeggiavo sul cassero della mia nave Ita Paricara, volgendomi nei miei tetri pensieri e dopo ragionamenti di ogni specie, conchiusi finalmente di cercarmi una donna per trarmi da una noiosa e insopportabile condizione. Gettai a caso lo sguardo verso le abitazioni della Barra, così si chiamava una collina piuttosto alta all'entrata della laguna, nella parte meridionale, sulla quale scorgevansi alcune semplici pittoresche abitazioni. Là, con l'aiuto del canocchiale che abitualmente tenevo alla mano quando ero sul cassero di una nave, scopersi una giovine. ordinai mi trasportassero a terra nella direzione di lei. Sbarcai ed avviandomi verso le case ove doveva trovarsi l'oggetto del mio viaggio, non mi era possibile rinvenirlo quando mi incontrai con un individuo del luogo che avevo conosciuto ai primi momenti del nostro arrivo. Egli invitommi a prender caffè nella di lui casa. Entrammo e la prima persona che si affacciò al mio sguardo era quella il di cui aspetto m'aveva fatto sbarcare. Era Anita, la madre dei miei figli, la compagna della mia vita nella buona e cattiva fortuna, la donna il di cui coraggio io mi son desiderato tante volte. Restammo entrambi estatici, silenziosi, guardandoci reciprocamente come due persone che non si vedono per la prima volta e che cercano nei lineamenti l'una dell'altra qualcosa che agevoli una reminiscenza. La salutai finalmente e le dissi: tu devi essere mia. Parlavo poco il portoghese e articolai le proterve parole in italiano. Comunque, io fui magnetico nella mia insolenza, stretto un nodo, sancita una sentenza che la sola morte poteva infrangere. Io avevo incontrato un proibito tesoro, ma pure un tesoro di gran prezzo. Se vi fu colpa, io l'ebbi intera, e vi fu colpa. Si rannodavano due cuori con amore immenso e si infrangeva l'esistenza di un innocente, il marito. Essa è morta, io infelice, e lui il marito vendicato. Io conobbi il gran male che feci il dì in cui, sperando ancora di vederla in vita, io stringeva il polso di un cadavere e piangevo il pianto della disperazione. Io errai grandemente ed errai solo. Là, dalle pampe del deserto, un nucleo veleggia alla tua volta, o Italia. E forse le tue miniere li hanno spinti, i tuoi favolosi palazzi, o le vezzose tue donne? Il tuo martirio, il doloroso rantolo del servaggio a te guidava i novelli argonauti. Essi hanno inteso rumoreggiare da lontano un grido. Tu, disperata, sollevar volevi la fronte corrugata e le catene frantumare e spezzar sulle cervici di chi t'oppresse e vilipese. Ferro noi ti portammo e non tesori e l'alma di chi pugnava in Sant'Antonio. Il ritorno. Alto e spumante è l'oceano, e lungi equidistanti i continenti, snello sguizza il delfin festante, alla fendente prora sfidando, è l'apparir giocondo dell'innocuo del mare ospite amico, unico forse a dissipar l'immensa monotonia del flutto. Fuggono le coste della Gallia, al celere scivolar della nave, la sospinge il vento impetuoso e le nevate cime sporgon dall'onde ed il sublime mostrano al navigante. Giunge la notte, il venticel dell'Alpi respinge i flutti accavallati e gonfi delle tempeste che Lione e Giano furiosi tramandano d'inverno. Fiuta nell'aer tuo natio, o stanco reduce navigante, e ti ricordi quel fragrante aroma, quel balsamo che ti beò bambino e nell'oscura notte accennavano la via di casa, profumi di giardini ed il tranquillo porto di Nizza t'accoglia festante. Furon giorni di gioia, i miei fratelli d'arme dovunque festeggiati, accolti come in famiglia dagli affettuosi concittadini miei. Nizza d'Italia sentiva i danni e le vergogne ed era sacrificata per viltà e venduta. Addio plata ridente, addio compagni del nuovo mondo, il nostro posto voi sì degnamente sosterrete al fianco dei valorosi americani. Il nero vessillo vi affidammo alle masnadi d'un tiranno funesto e alla vittoria sacro. Roma. 14 anni, conta, la malvagia fazione di un tiranno. A Roma il voto fu d'un intero popolo, e menzogna il nemico rapace alle sue mura condusse. Allora un pugno di guerrieri rispose con il ferro, e sul gianicolo spinse i suoi formidabili. Forato è il poncio, e sotto la mia rossa camicia il sangue gronda, un franco piombo m'avea tastato il fianco. Guardo d'attorno, e sotto le frementi zampe del mio corsiero, non è forse uno dei sette colli? Non giurai di servir questa terra e liberarla, o seppellirmi tra le sue rovine? Che bella morte! E io sorrisi come all'apparir d'una fanciulla amata. Non fu la morte, ben altre miserie dovevo ancora sopportare, ed altro piombo ferire queste membra ad altra mano affidato. Cessata è la difesa, e corteggiate saranno domani le belle romane dai soldati arroganti. E tu, nipote di Camillo, la fronte al suo cospetto china, inginocchiati ai vecchi padroni. Stolto, che spero da codesta inerte discendenza di preti? I miei più fidi mi lasceranno, i miei più cari affetti saranno spenti, e le foreste, i monti più scoscesi, alle mie stanche, piagate membra daranno rifugio tra i lupi, molto meno feroci degli sgherri insidiosi, intenti ad inseguirmi. Perdona, Italia, se le tue sventure ed i dolori miei mi inacerbarono. Non tutti i tuoi figli son vili. Alla furente caccia del tiranno Segugio io fui protetto da intemerata gioventù, siccome leoni la sua prole. Dall'Adriatico giunsi al Tirreno, inosservato, salvo dall'aquila Grifagna e dai suoi cani. Prosegui il tuo cammin proscritto. Un pugno troverai sempre di ribelli al peso delle catene. Invano la sbirraglia di quattro re ti insegue. Le scoscese rupi dell'Appennino e l'imponente marziale aspetto dei miei fidi frenano la furia dei nemici, finché salvi noi raggiungemmo la città neutrale di San Marino, unica terra allora in Italia non serva, ed il gentile e ospitale suo popolo accoglieva come fratelli i reduci guerrieri. Scendete e disarmate quei felloni, io dissi ai miei compagni al limitare di Cesenatico. E in un batter d'occhio furono presi e disarmati i pochi tronfi sgherri dell'Austria insediati nell'italiana terra. Era preludio, forse, della salvezza, e noi, padroni di numerose barche, alle lagune potevamo arrivare. La fortuna non cessò di sfidarci. Un temporale l'onda infuriò del mare. E nell'angusta foce i marosi accavalcati e infranti, ostinati, innalzavano barriere a noi fuggiaschi. Alla balia dell'onde andavano i bragozzi sotto il tiro degli austriaci vicini e numerosi. Io navigava al fin coi pochi, e sulla stessa barca erano insieme la dolente donna, il Bassi, e l'integerrimo tribuno della romana plebe, il valoroso Ciceruacchio, e due diletti imberbi figli di lui. Io contemplava muto quei cari, e alla consorte un sorso d'acqua porgea, conforto miserando e solo alla fuggente vita. Era un tramonto come nei giorni belli, e nel mio cuore amareggiato dalla dolorosa scena presente al sole io rivolsi lo sguardo a lui che riverente, lieto, io salutavo nella giovinezza, quando nel mare religiosamente salutavo il tramonto e l'alba, e dissi potesse essere l'ultimo tramonto di questa vita sciagurata e nulla. E tu, sollievo del dolente, luna, propiziatrice della notte, il bianco tuo disco sorge a confortare sempre il marinaio solo e lo smarrito viaggiatore del deserto. In quella notte fosti innemica, videro i nemici le nostre barche fuggire, ed allora, come mastini sulle nostre tracce, tutta la flotta si affollò. Fu facile assalire, raggiungere, disperdere quel resto miserando che in alto portava ancora il vessillo marziale, forato, ma che pure Italia poteva guardare insuperbita. Infine fummo dispersi, e dei 13 pochi approdarono alla sponda, prigionieri furono gli altri, ed approdai col caro peso di lei che si moriva. E lascio pensare lo stato del mio cuore: da un lato le barche inseguitrici, il grosso stuolo d'austriaci sul lido, ed i ribaldi sbirri del prete, come cani attenti a fiutare la preda in una nube, come nei dì che furono nascosti, credo, noi fummo. Io rimasi a poca distanza dalla sponda, il mio tesoro a custodire, e dico tanto amore giammai avevo amato l'infelice madre dei miei bambini. Il sacerdote vero di Cristo, bassi, non lontano cadea nell'ugno del Carcuto, e fiera morte affrontava dopo la tortura che tanto è cara alla scelleratezza dei ministri d'inferno. A poche miglia moriva pur Ciceruacchio e i figli da piombo. Il pargoletto degli due morì trafitto sulla sabbia, e un pio soldato al calcio del fucil fidava il fracassar del giovinetto il cranio. E i moderati s'affaticano oggi l'amicizia dell'Austria a meritarsi. Morte, io sorrisi al tuo cospetto, e questa certamente non fu la prima volta. Il volto mio, ben noto alla sventura, nel tremendo frangente di mia vita s'atteggiava al dolore, e che dolore, nell'agonia l'amata donna, e un sorso d'acqua negato a quelle inaridite labbia. Io sorrisi, ma da disperato, ma di demon fu quel sorriso. Il fuoco dell'inferno m'ardeva, che pur io vissi. Si salvò un coraggioso, era Bonetti. Io lo seguia, non conscio della vita. Lei sorreggendo all'ospital dimora. Ivi un giaciglio la raccolse, e mentre corcata il pugno mi stringea, di ghiaccio si fe l'amante la mia donna, e l'alba s'involava all'eterno, e io brancolando baciai la fredda fronte, e del mio pianto l'inumidiva. Itala, terra è che ti copre Anita, e terra schiava, la vagante incerta vita trascinerò nelle foreste, e l'oceano risolcherò, ma l'ossa tue quasi insepolte alla sbirraglia non lascerò dello straniero. I campi ovvero vinque perseguito, appena io scamperò, risuoneran del pianto e rantolar di mercenari e spie trafitti e moribondi. Al santuario venduto dei miei padri avran dimora le tue reliquie, e della madre mia, madre ad entrambi, adornerai la tomba. Thank you. selvai nella pineta e pia gioventù mi protesse. Allor che il tetro persecutore il mio covil fiutava un gareggiar tra generosi, assito più sicuro guidarmi, e molte volte pochi cespugli dividean la preda dai cacciatori austriaci, e molte volte io tra di loro li sentii parlare. Sant'Alberto, Forlì, Prato, Ravenna, e voi, ben cari maremmani, un cenno di gratitudine accogliete, e un dolce ricordo a Modigliana, ove gentile di Cristo un sacerdote all'ospitale sua magione mi accolse, ed instancabile guida seguimmi tra i dirupi e l'erte dell'Appennino. Si lascia a tergo l'Appennino, il lido del Tirreno cercando. Alle maremme etrusche, fidi condottieri etruschi ci guidan salvi. Il mare appar propizio come una volta, quando al primo albore della mia gioventù mi sorrideva con il sembiante d'un amico e altero solleticava nel mio cuor desio di imprese virtuose. Ed io rividi il vasto seno di Venere ansante, intenerito dall'innumerabile somma d'affetti, di memorie e sensi suscitati nel cuor dall'imponente primitivo elemento. Una fragile barca raccolse i fuggitivi e, costeggiando il confine toscano, sulle liguri coste ci pose, inosservati e salvi della vita, ma non di libertade. E solcai l'onde di bel nuovo, al primo mestier volgendo, ma una dura via resta da vivere al proscritto, e molto mi toccò di salir per l'altrui scale e scender pria di contentar la brama d'indipendente vita. E in irrequiete vita così vagai per la Colombia. Al fine, in Lima, un mercantil legno m'accolse, e alle lontane della Cina sponde drizzai le vele, e verso l'India e verso l'Australia, il quinto continente. Il giorno, quasi non cedere alla notte, io vidi la prima volta, e la stupenda, immensa, meravigliosa vastità del padre degli oceani. Sulla fredda zona, spinto al levante dall'eterno moto traslatore della terra, ma vicino al tempestoso Capo Horn, e ancora volgendo poi, nella perenne brezza m'ingolfa e spinge al peruano Lido. Sempre all'Italia in cor l'esule, e il suo nome santo lo abbella. Alle lontane s'avventura contrade, e sia fortuna sorridente o d'avversa, il suo natio anelante ricerca, ove deporre tra le miserie o le ricchezze l'ossa. Propiziatrice, non trovai fortuna alle fatiche, e dell'uman consorzio stufo il deserto mi sembrò certezza nella tempesta di salvezza. E quiete finalmente cercai sul derelitto nido della Sardegna, e te trovai, Caprera venturosa. O caro scoglio, rifugio amato del mio cuore, qual donna amata, se scordar potessi il mondo tra i tuoi dirupi, nulla più vorrei desiderar su questa terra, e un sasso chiederti del superbo tuo granito per ricoprirmi. Qui non s'innalzan di colossi alteri le superbe macerie, simulacro dell'arroganza dei potenti, eretto dalla fatica dello schiavo. Segni di fasto non iscorgi. Il santuario della natura è questo, alle tirrene onde strappata dall'immensa mano di chi sospinse l'Himalaya e l'Alpi. Di antichi abitator sorgon rovine dovunque, tra le balze ed i dirupi della selvaggia, ma le case povere, connessi appena da cemento, il clima come il granito è robusto, ed i venti non consenton le nebbie, e la malaria micidial non vi alberga, alle vicine ubertose costiere i suoi miasmi accumulando, gli abitanti uccide onne deturpa della vita il nerbo, basta d'affanni e di rancori. Un'asta impugneremo, ma divanga. Il cuore poco servile ben si piega al santo lavoro della terra, e se il sudato pane mi basta, che cosa mi importa se popolato di tiranni e schiavi è sempre il mondo? Così non fu sempre. Chi sel soffre, sel merta. Alla catena chi piega il collo, e dopo la catena avrà il bastone. A che serve combattere tutta la vita il male e dei soffrenti propugnare la causa? Ero vicino alla vittoria e mi sembrò di averla in mano, e indietro mi voltai. La patria che Dio mi diede allo stranier venduta vidi, e vantarsene in Napoleone. Poi uno sciame di liberti al prence disse: da voi noi libertade avemmo, e libertate da voi sol vogliamo, come se imperatore e libertà fosse la stessa cosa. Vanga, vanga, e cerca d'obliar tanta stoltizie dell'umana famiglia. Oh, se il Leteo fosse quest'onda che ti accerchia, fosse tra il continente e me l'ampio oceano. I mille. Salve, o falange di gagliardi, o mille guerrieri venturosi, invan l'invidia della canaglia vi dilania. Il mondo tutto applaudiva la grand'opera, e i fasti ne rimarranno imperituri. Italia, per voi, raccolse le disperse membra, infranse i ferri, le barriere e i scettri, e si sovvenne che fu un dì regina. Frementi al grido dei siculi i prodi muovon da quarto, e a Talamon raccolte le non complete vetovaglie il lido toccan dell'Ilibeo. Cala Tafimi, sul tuo colle un giorno vedesti in fuga la fatale schiera dei padroni del mondo, e serbi ancora di quel conflitto la memoria e i nomi, serba o terra di prodi il venturoso ricordo dei tuoi mille. Coperto è il colle di Morenti, e giace accanto al corpo dello schiavo il forte propugnator del diritto, e i bruni lineamenti del siculo risaltano con i biondi capelli del Lombardo. S'avvinghia il figlio del Sannita al molle partenopeo cadavere, e l'Italia, madre di tanti figli, può vedere che son nati da lei per sua vergogna. Fugge il liberticida e le adirati genti che oppresse la giusta vendetta infliggono al perverso, e pasto ai cani io li ho veduti i suoi soldati, e sparse per la strada le membra, a miserando tetro spettacolo esempio ai potenti. Ecco apparir la conca d'oro e gli orti della bella Palermo. Un temporale si scatena nel cielo, si rovescia sulle libere schiere, imperversando a torrenti di pioggia. Imperturbati, benché sprovvisti di coperta, i prodi non batte un ciglio, sono preparati alle battaglie come alle tempeste. Non si sente un lamento tra quei forti, risoluti a marciare sul nemico. E proseguimmo vincitori, il ferro nelle reni al nemico, e ponti, e mura, e fulminanti bronzi inutilmente cercavano di fermarci. Anche la morte colpiva in vano nell'eletta schiera che guidava all'assalto. In Fiera Vecchia, illustre piazza di Palermo, vennero i primi cittadini alla battaglia pronti ed armati con qualunque ferro. Pari al ruggito del leon, la cupa voce del popolo, vendetta e sdegno, immensa e tetra, rumoreggia. Ferve la pugna nelle strade, ovunque è l'inimico ricacciato ai forti dove si intana, ed allora i tremendi cannoni batton le contrade, e ancora la flotta cannoneggia, e di macerie il suolo è ingombro. La schiera fatale dei liberi non teme, e per incanto son barricate di rottami. Ovunque, oh santa usanza, vero battagliare di popolo, la tua informe struttura incute lo spavento ai truci sgherri del dispotismo, e dà speranza al valoroso che invece combatte per la sua casa, la sua donna e i figli. Sono in frantumi le tue case, e chiese, e palazzi, e tuguri, e di rottami coprono i tronchi dei tuoi figli informi, e rosseggianti le spaziose vie di quel nobile sangue, e senza tetto le fameliche turbe. E tu, superba città del Vespro, lanci la tua voce terribile di sfida, impallidisce tra le sue mura il servo trincerato. Ma tu chi sei? ermafrodita belva che ora ti chiami moderata, ed altro non sei che figlia dell'età di servi che vendette l'Italia allo straniero e accovacciata sotto il disco l'ossa rodeva delle plebi, moderata, moderata nel bene. Sì, perversa, ma nel male le doti hai di Satana, meretrice del mondo, sei la peste degli uomini, sei più contagiosa e micidiale di quel morbo stesso, sgabello di tiranni, il tuo malvagio contatto ancor peggiora il già bestiale temperamento di quei mostri, e il lezzo tuo corruttore, le masse ignoranti contagia di veleno, e la natura per te recede dal progresso e langue. Salve, o Palermo liberata, il tuo serva esempio ai congiunti, e che chi soffre sel merta il giogo, e il fiacco non è degno di libertade. E a che servir potrebbe libertade a colui? Solo ad esibire le sue colpe, le sue vergogne? Libertade alle pecore? Un bel giorno, là nelle pampe io guerreggiava, e un gregge mi si affacciava derelitto. Il tempo tempestoso di pioggia, e le infelici lanute, ove depresso era il terreno, s'affollaron paurose e accavalcaronsi per superar la soperchiante e fredda acqua piovana. Sicché un bianco monte in poco si formò di quei rigonfi cadaveri, ed in cima si vedevano alcune vive pecorelle. Il piede calcavano sulle altre. Un sol bastone vi sarebbe bastato a ricondurle sul ciglione e sottrarle dall'eccidio ove le spinse libertade. E botte dunque ai lanuti moderati, e forte, giacché di libertade tanto paventano. Un piede è posto al fin sulle ridenti sponde di Reggio, e di una nuova gloria ornò la fronte gli argonauti. In vano cercano di fermarci, in vano in mare spesseggian folti incrociatori, in vano i numerosi eserciti, la mano di Dio conduce la tirannicida falange, ed i nemici, i baluardi, sono rovesciati nella polvere. Torna sulle rovine del delitto il santo diritto ad essere liberi, ed il cielo alla redenta umanità sorride. Giuseppe Garibaldi, poema autobiografico, a cura di David Riondino, voci recitanti di David Riondino e Paolo Bessegato, accompagnamento musicale e bandistico della Filarmonica San Vitese, diretta da Chiara Vidoni, direzione musicale di Fabio Battistelli. Con Claudio Morici per presentare il suo spettacolo Fenomenologia dei rapporti di coppia a Roma al Monk 24 e 25 settembre 2020. Claudio, ben trovato. Ciao, ciao, ciao. Cos'è questo nuovo lavoro? Sono dei racconti comici nuovi e qualcuno vecchio. Però, diciamo, la maggior parte sono cose che ho scritto da quando è successo tutto quanto, diciamo. Dal lockdown, dai domiciliari, no, anche le facevo molti video come tanti performer, così un po' sono alcuni di quelli rielaborati, altri no, anche non l'ho mai fatto da nessuna parte, neanche in video, però sono racconti brevi. Mi sono accorto poi a un certo punto che il 90% dei miei racconti brevi e non parlavano i problemi di coppia, non ero mai accorto, anche se stava lì sottolineato, 90% lo conoscevo, ma questo è anche uno dei problemi in coppia che ho, che non mi accorgo di cose del genere, che figuriamoci se mi accorgo di racconti sui problemi di coppia, di e allora l'ho declinata completamente in questo, quindi sono tutti dialoghi uomo-donna, manualistica cazzarona e descrizioni di situazioni legate al rapporto uomo-donna e alle relazioni. In tutto questo c'è anche un peso del virus? Beh, ci stanno pezzi come tecniche di rimorchio in fila al supermercato durante una pandemia. E poi c'è, a un certo punto, c'è un scambio di messaggi che, ecco, anche questo è un altro fattore pandemia, è che molti di questi pezzi sono messaggi, dialoghi tra i messaggi, una cosa che solamente è stata tale, però c'è, a un certo punto scrivo di un pezzo di messaggi che probabilmente è il pezzo in cui è più facile identificarsi in assoluto che abbia mai scritto. Chi meno l'ha fatto, e praticamente consiste nello scrivere alle ex, durante la pandemia, che è stata un'azione devastante che ha coinvolto milioni e milioni di italiani, e non solo, ovviamente, però in questi nei mesi così capitava, cioè di più chiunque non aveva scritto neanche a una ex. Molto difficile anche sapere come stava, così, però era suggeriva questa l'onda di una situazione così comune come questa, poi ovviamente ci sono meccanismi surreali che vanno oltre e quindi si avvicinano ancora di più a una verità che non sta oltre soltanto apparentemente, diciamo. Questi pezzi più o meno quanti sono, e immagino anche abbiano una durata variabile. Lo spettacolo durerà un'ora circa, ancora sto facendo la scaletta, mi sto provando, e durano di solito 5 minuti, una media di 5 minuti l'uno, dai 4 ai 6 minuti l'uno durano, sì. La scaletta è importante, perché poi mi sono accorto anche che ce n'ho tantissimi vecchi, è anche difficile togliervi dalla scaletta dei pezzi che ho sempre fatto, perché funzionano, mi avvicinano al pubblico ogni volta, mi fanno dire che insieme al pubblico, quindi poi però ho pensato devo pure non farlo di più, diciamo. Una cosa che assomiglia a un concerto, no? Con un cantante, un gruppo che dice no, questa canzone non la voglio più fare perché la faccio sempre, adesso basta, per un anno non la faccio più. Essendo pensi quando mi fa la scaletta, quella è la tematica. Mi divertirò a provare a mettere una spina dorsale di pezzi completamente nuovi. Questo lockdown è stato prolifico da quanto sento. Da tutti della scrittura, sì, anche gente, tante altre cose, non è che solo queste cose, però sì, a un certo punto quando ho capito che non c'era più un lavoro, che avevamo perso per un bel po' di mesi, io personalmente vengo dalla scrittura, che prima scrivevo solo romanzi, questo ho fatto molto più di romanzi che teatrante, il teatrante è una cosa recente, diciamo, quindi poi a un certo punto mi sono riconnesso con la mia attività di scrittura, che ho iniziato a scrivere anche un nuovo romanzo, per dire così, poi ci ho avuto il tempo di farlo, perché non avrei mai avuto il tempo di farlo se stavo in una vita normale, non avrei mai avuto la possibilità, cioè con la vita che faccio a Roma così non mi sarei mai rimesso a scrivere un romanzo, non c'avevo tempo. Ormai ho riniziato e mo continuerò a scrivere più che fare teatro, credo. Questo è stato quello che posso prendere di positivo personalmente dal cambio di vita, questa storia, diciamo. Ho visto che c'è l'evento Facebook. Sì, c'è un evento Facebook che mi è fatto insieme al Monk, Fenomenologia delle relazioni di coppia considerata in Italia negli ultimi 10 minuti. Sì, esatto. Carino anche questo, la seconda parte del titolo. Siamo divertiti. È il Monk, sono 2 giorni, il 24 e il 25. Anche questo è interessante perché è al chiuso, è come se ricomincia una pseudo normalità con le norme anti-Covid severissime, ed è un modo per ricominciare in maniera diversa e strana. Comunque il posto è molto grande, le porte saranno spalancate, ci saranno col distanziamento 100 posti. Alla fine a Roma i posti con 100 posti a sedere distanziati saranno pochissimi, e forse non ci saranno, proprio, perché i teatri da 150 posti hanno 35 posti, e alcuni non aprono, li fanno solo per finanziati, insomma cambia per qualche mese poi dai. Fenomenologia dei rapporti di coppia a Roma al Monk, 24-25 settembre 2020. Un saluto e un ringraziamento all'autore e attore Claudio Morici. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto, okay, Claudio. A presto, grazie. L'agenda della settimana teatrale. Intervista per la trasmissione radiofonica Radio Teatro del 2016 all'autrice e attrice Eleonora Danco, che sarà in scena con il suo spettacolo Intrattenimento Violento alla Festa per la Cultura, Teatro Garbatella, venerdì 25 settembre 2020. Benvenuta, ben ritrovata Eleonora Danco. Ci saranno delle varianti in questa nuova messa in scena? Sì, sono due performance che parlano di Roma, tutte e due, cioè che trattano più che parlano, anche se ci sono molte parole, ma è sempre un trattare. Il mio lavoro, Roma. Per trattare intendo un impatto diretto, per questo molte volte il mio teatro è stato paragonato al cinema, anche se io non ho mai usato tra l'altro immagini, video, ma questo non vuol dire, per il tipo di scrittura che ho, perché il tipo di scrittura che io applico e che so fare è quello di essere diretti. Un impatto diretto verso lo spettatore che deve vedere davanti l'immagine, e quindi vederla non ti impone di capirla, ma ti arriva. Però tu autore la dovresti capire, quantomeno per formalizzarla in questo modo. E quindi diciamo che il mio sforzo giusto, sano, che devo fare e che mi diverte fare, è quello di lavorare sull'impatto, dell'immagine, in modo che la parola non diventi un incubo, una trappola, un ricatto psicologico per chi guarda, ma possibilmente che diventi un suono, un'immagine, un ricordo, qualcosa che sia vivo a livello emotivo. Senti Eleonora, avevamo un po' pensato con te di alternare un po' di chiacchierata con alcune performance. Vogliamo cominciare con qualcosa? Allora, guarda, io pensavo rimanere per ora su Intrattenimento Violento. Okay. Intrattenimento Violento, che è la prima volta che lo faccio da sola. A proposito, una piccola parentesi, devo ringraziare innanzitutto Michele Placido, che in modo molto coraggioso, senza rete, devo dire, qualche anno fa mi ha prodotta al Piccolo Eliseo, e l'ho fatto con Valentina Lodovini e Lunetta Savino in quella versione, e sono state anche loro molto generose. Abbiamo fatto questo spettacolo che andò benissimo, ecco. E poi l'ho rifatto all'Ambra Iovinelli, prodotto da Marco Balsamo con altre attrici, Paola Minaccioni, Lunetta Savino e tutti quanti. Ecco, devo dire che questa è la prima volta che io lo faccio da sola, okay, questo spettacolo, quindi ci sono sicuramente delle varianti. In questa versione singola chiaramente è molto diversa, perché sono tutti personaggi a flash, quindi ha un altro tipo di ritmo. Devo dire, fondamentale per questo tipo di lavoro è la collaborazione che ho da anni, da quando è nata la compagnia Eleonora Danco, e anche tantissimo per il film, con Marco Tecce. Marco Tecce ha sempre scelto tutte le musiche dei miei spettacoli, che sono gradate, montate in modo che proprio diventano una continua possibilità proprio emotiva, visiva, di memoria, di originalità, che sono il 50%, devo dire, del risultato del mio lavoro. E io poi lavoro molto col corpo e la musica, e quindi in questo caso ho spazio tra Lou Reed, un ingresso di Joe Tex, tantissima elettronica, techno. In questo pezzo, che non, tu non mi stai mettendo la techno, però in questo alto e basso, diciamo, che io su cui lavoro, posso farti, se vuoi, intanto una poesia tratta di intrattenimento violento. Ci sono vari flash, okay, romano e italiano. Sono tanti flash. Uno di questi si chiama, per esempio, Spazzolino. Ok. Manca spazio, davvero uno scherzo, eppure ne abbiamo tanto tra tutte quelle arterie, costole, la sacca intestinale, i bronchi, lo stomaco che macina i giorni dei giorni, trascinandoli nel fegato fino in salita, sulla punta della testa, nella bocca, riscendere tra noi viventi col respiro. Illusioni, smarrimenti, e sempre da là ricominci, lavandoti chinato quei cazzo di denti. Ci sono vari livelli, c'era Spazzolino, come per esempio c'è Flash, certe volte la pizzetta alle 2 la digerisco. E poi ci sono tanti altri passaggi, come ad esempio, per esempio, parolacce. Me so rotta al cazzo! Lassatemi campà! Lassatemi guardare un po' sto cielo che mi casca addosso, lassatemi aprire la bocca, anche solo per non di niente. Ci stavano i gabbiani, do suiti sti stronzi. Appresso a qualche paranza a riempissa la panza, o sai, me faccio pena da sola. Ah, che ride! Ah, che ride, che ride! Ecco, questo per esempio è un passaggio che ora qui è molto forzato, però in scena rappresenta comunque la solitudine di questo personaggio che gira per una città e si fa pena da sola. Come per esempio invece ci sono dei passaggi molto più intensi, intimi, come per esempio 00186 Roma Italy, è la storia di una lettera, di una persona che scrive una lettera, dove appunto inizia dicendo: certe volte per la testa mi passano le cose più diverse, ho scavalcato un monumento a vedere come piangevo perché non l'ho mai capito, ho rubato la mancia al cameriere, ho messo la carta igienica nel seno per farmelo più grosso, ma non tanto, il senone mi deprime, eccetera eccetera. E poi ci sono tutti i passaggi anche tra mamma e figlia, per esempio c'è una scena che io amo molto, questo sempre rimanendo dentro intrattenimento violento, okay, che sono madre e figlia che sono in metropolitana, questo rapporto violento che vi sarà capitato qualche volta di vedere queste madri che rispondono male ai figli, o comunque che sono stressate anche dai figli, perché è anche faticoso, no? È un'energia a 3000 di un bambino con una madre, la madre è terrorizzata che la figlia si allontani, le dice: non ti allontanare, Dio Vergine Santa, non ti allontanare. La figlia dice: ma c'ho caldo, mi sta sudando la fronte. La madre dice: fermate, ti asciughi a casa, non li leggi i giornali, ci mettono 2 minuti a far sparire i cazzini, te se rivendono se te va bene, se no te fanno il trapianto d'organi. A mamma sta su dalla fronte, ma che si ha di? Sto a di che te stacca nel polmone tuo, nocchio tuo, il fegato tuo, e l'attacca a un altro che manco conosci. A mamma che si ha di? E poi appunto c'ha le visioni che vede in metropolitana i piccioni, dice: ah, ci stanno i piccioni, guarda quel piccione, ma è zoppo, gli manca una zampa, che deve morire, ma te lo sai? E poi si interrogano anche sulla religione, per dire, parlando, no? Perché lei non ha capito una cosa e dice una parolaccia. Allora la madre dice: che vi insegnano a bestemmiare al centro di recupero? Tu gli devi dire che Gesù è quello che ha fatto a te, ha fatto a me, ha fatto a metropolitana, ha fatto a tuo zio, è da 2000 anni che si sa, digli così, diglielo, vedi come ammutolisci. E la ragazzina ingenua, che non sa niente, dice: ha fatto pure le scarpe tue, ma hai lacci mia, rosetta che ha mortadella. E insomma c'è questo rapporto di Roma, della spontaneità, delle frasi che puoi sentire anche, per dirti, nei bar, che però nella forma della scrittura hanno comunque una struttura molto diversa, sono solo in apparenze spontanee, devono essere rese spontanee ma non lo sono. Senti, proprio a questo proposito, nella costruzione delle tue storie, dei tuoi personaggi, funziona che tu giri per Roma, ascolti frasi captate qua e là, anche domandi alle persone. Mi ricordavo per esempio proprio di Squartierati, tu andai comunque in giro a intervistare le persone, oppure ti capitava di sentire frasi qua e là, no? Funziona anche un po' così. Allora, io ho due modi di lavorare. Un modo che è totalmente di un'assunzione di responsabilità estrema, cioè quello in prima persona di provare a vivere. E provare a vivere non vuol dire che devi fingere di vivere, ma insomma esporti anche in situazioni tra virgolette estreme, o comunque lasciarti andare alla corrente, ecco. Quindi è anche un'assunzione di responsabilità che in apparenza sembri un nulla facente, un borderline, un poraccio, uno così, e invece in realtà il tuo lavoro è anche quello di stare in mezzo alle cose, perché ragionavo proprio sul fatto, secondo me il teatro, l'arte comunque, ma anche un certo tipo di cinema è un luogo che deve essere in anticipo rispetto alla realtà. Mm-hmm. Per essere in anticipo mi domandavo cosa è essere in anticipo. Fare una cosa vestiti con le tute spaziali? Non credo. Cioè, essere in anticipo forse vuol dire riuscire a captare, a comprendere delle cose in maniera quasi selvaggia, perché è la eco l'anticipo, no? E allora per fare questo io penso che istintivamente mi viene come autore, non come attrice, ma come autore mi viene di stare, di lasciarmi andare alla realtà. Per cui da una parte vivo e dall'altra uso la vita, ecco, diciamo così. Ti posso fare una poesia a cui sono molto legata, te la faccio sentire solo il testo, e si chiama appunto Finestra. Cioè, no, non la reciti? Non lo so. Finestra, il risveglio è un incrocio. In quel momento d'attesa assoluto, della prima apertura dell'occhio, in quel vuoto incompleto, mi avverto appesa ad un niente, ad una goccia di pioggia alla finestra, alla gamba come pure alla pancia che ecco si sgancia dal letto, con le mani, la testa e pure il cervello. Percezione sicura del movimento che al barco mi attende, fuori la porta di camera, camera da letto, camera avvertita come sogni che ancora infiltrati ricordo. Sento il loro sapore, e mentre batto i passi a tempo dell'animo mio in piedi al giorno emerso, abito la prima macchinetta di caffè, e nel bagno davanti allo specchio so già che potrò cambiare, ma chiamando la sera ritornerò nel letto, e sdraiata verso destra guarderò la finestra, e sdraiata verso sinistra vedrò la mia ombra riflessa. Intrattenimento violento e Squartierati, rivisti e modificati in qualche modo. Sì. A disposizione c'è sia il sito internet della compagnia Eleonora Danco che la tua pagina Facebook. Senti, vuoi che io sia presente a una di queste due date? Tu devi essere assolutamente presente, perché mi hai sempre portato molta fortuna, quindi voglio che tu sia presente. Bene, va bene. Intervista per la trasmissione radiofonica Radio Teatro del 2016 all'autrice e attrice Eleonora Danco, che sarà in scena con il suo spettacolo Intrattenimento Violento alla Festa per la Cultura Teatro Garbatella, venerdì 25 settembre 2020. Il coautore, attore Ariele Vincenti presenta lo spettacolo Cose Popolari a Roma, Teatro De Servi, dal 24 settembre all'11 ottobre 2020. Ariele, ben trovato. Sì, ciao Federico, grazie per avermi ospitato in questa intervista, grazie mille. Allora, avevamo già ospitato sia te che questo lavoro al Radioteatro. Per chi non lo conoscesse, descrivicelo. Sì, questo è uno spettacolo che portiamo in giro da 3 anni e parla di una coppia che, in poche parole, occupa una casa popolare e poi si va a scontrare con tutta la burocrazia e personaggi loschi, insomma, che circondano purtroppo questo mondo dove circolano i soldi, insomma ci sono sempre personaggi loschi. E all'interno dello spettacolo c'è un altro personaggio che è Mario, che è il loro vicino di casa, un sessantenne, un po' il matto del quartiere, no? Che però in realtà ci riserverà tante sorprese anche poetiche. E insieme a Mario c'è un altro personaggio che è Stefano, che è il fratello della mia fidanzata e che comunque in qualche modo ci aiuterà, insomma, in tutto e per tutto. Anche lui all'inizio è un po' restio nell'occupazione

È un festival che si occupa di performance art contemporanee e la particolarità del festival in tutti questi anni è che lavora nei paesaggi urbani, quindi in forte connessione tra gli spettacoli e performance che presenta con gli spazi e le comunità con cui si relaziona. Quest'anno, all'interno di una triennalità che ci ha accompagnato anche nelle edizioni precedenti, ci stiamo a Largo Spartaco, nell'area pedonale Largo Spartaco al Quadraro, e c'è un Largo Spartaco un po' il fulcro del festival, poi ci sono alcuni spettacoli che si espandono in altri spazi urbani. Quest'anno arriviamo appunto alla 20ª edizione, siamo in una situazione anche complessa come è stato tutto questo anno, sia per la costruzione del festival durante il lockdown, sia per quello che adesso c'è un po' una diversità di vivere anche lo spazio pubblico, ma tanto più in questo momento ci sembra importante rilanciare degli eventi culturali e proporre un festival. È quello su cui abbiamo lavorato molto, per cercare che il distanziamento fisico non diventi distanziamento sociale, quindi che il festival, all'interno di quella che sono le normative attuali, che sia comunque un spazio relazionale, accogliente e ospitale. Tutto il programma è pubblicato sul sito che è attraversamentimultipli.it. Quanti saranno gli eventi e come saranno distribuiti? Il festival dura dal 18 al 27 settembre a Roma e gli spettacoli e le performance vengono presentate il 18, il 19 e il 20, quindi venerdì, sabato, domenica, e venerdì, sabato, domenica successivo, che 25, 26, 27. E poi, come l'altro anno, c'è una puntata fuori Roma di due giorni, il 3-4 ottobre, a Tofia, due giornate dedicate alle nuove generazioni di spettatori, quindi con spettacoli per un pubblico kids, quindi giovani e giovanissimi. Quest'anno presentiamo 28 spettacoli, 20 compagnie sono in azione, diciamo un po' nello spirito di Attraversamenti Molti, sono tutti artisti anche diversi tra di loro, sia per generazione che poetiche, ma comunali da una ricerca volta a connettere, espandere quelli che sono i linguaggi delle arti sceniche contemporanee, creando delle opere innovative. Tenendo presente anche questa situazione in cui secondo che costruire il festival, quest'anno abbiamo rafforzato ulteriormente la presenza del Site Specific, che in realtà è una caratteristica un po' di Attraversamenti Multipli di tutti questi anni, ma quest'anno abbiamo rafforzata maggiormente proprio per delineare una programmazione che sia in grado di relazionarsi col pubblico, con gli spazi, anche attraverso queste nuove modalità con cui ci dobbiamo relazionare. La caratteristica di quest'anno è che abbiamo scelto di invitare compagnie che hanno già attraversato il festival, in quanto abbiamo deciso un po' di festeggiare questa 20ª edizione con un non compleanno, anche perché appunto la situazione era complessa, ma un non compleanno che voleva rilanciare un po' quelli che sono poi i pilastri del festival e i suoi elementi caratterizzanti. Lo slogan, il tema intorno a cui tutto ruota, ogni anno c'è un sottotitolo di Attraversamenti Multipli, e quest'anno è tutto è connesso, proprio perché ci sembra importante andare a sottolineare questa situazione, che tanto più in questo nostro presente è chiaro che è uscita con forza l'elemento dell'inter, quanto siamo tutti interconnessi, non soltanto esseri umani, ma ambiente, esseri di altre specie, quindi è veramente fondamentale una capacità di interconnessione sana, positiva tra le persone. E infatti l'immagine guida che ci accompagna è una farfalla, un po' andando per una metafora proprio del butterfly effect, dell'effetto farfalla. E sempre il 18, guardando, diciamo così, facendo ritorna, e di questo siamo molto felici, Teleradio Metropoli, che era un cavallo di battaglia di Attraversamenti Multipli per molti anni, quando lavoravamo anche molto, presentavamo gli spettacoli nelle stazioni, nei luoghi di viaggio, stazione dei treni, delle metropolitane, e l'abbiamo ripensato e riformulato Teleradio Metropoli in connessione con l'ultimo nastro di Kraft, che è un progetto di Simone Giustinelli e Stefano Bappi, e Teleradio Metropoli è una specie di street TV, radio TV performativa che racconta il festival, ma non solo, direttamente in live da Largo Spartaco e con anche dei momenti in streaming sui nostri canali, quindi diciamo nella piazza concreta fisicamente, ma contemporaneamente apre pure alla piazza virtuale attraverso i social network. Per la prima troppo in azione il 18, il 19 e il 25, 26 delle ore 20, e formati particolari, un'altra caratteristica che rilancia il festival quest'anno, un po' un pilastro, diciamo un elemento fondativo di Attraversamenti Multipli che ci ha accompagnato in percorso in questi anni, le performance appunto con dei formati spaziali e temporali strani. Nonostante la situazione complessa, quest'anno abbiamo cercato comunque di mantenere questo elemento della costruzione delle performance, cioè il festival non è soltanto il momento spettacolare, ma anche un luogo dei processi artistici, che accoglie i processi

e non volevo entrare, ci volevo lavorare in assoluta libertà d'azione. Ovviamente questo comporta anche dei rischi, però le fonti giuste comunque poi le ho trovate, e poi comunque libri, archivi, biblioteche, testimonianze, documenti ufficiali, documenti giudiziari, documenti sanitari, tutto ciò che è possibile di tutto campo, ovviamente anche muovendomi con gli occhi e con i piedi. Che idea ti sei fatto di questo caso? Beh, l'idea è il titolo del libro, Delitto Neruda e ciò che è scritto sulla copertina, il poeta premio Nobel ucciso dal golpe di Pinochet. Ripeto, volevo raccontare un dubbio, alla fine, mettendo in fila tutto questo, non può che essere questo il titolo. Neruda non è morto per il tumore, aveva il tumore, quindi è morto con il tumore. Il certificato del medico è falso, non è firmato dai medici della clinica dove era ricoverato, ma da un urologo che non era presente in clinica, non è mai andato nei 5 giorni del ricovero a trovarlo. La cachestia, ovvero la denutrizione di cui si parla nel certificato medico, è fasulla, non può essere. In base alla cintura allacciata trovata nel corpo riesumato di Neruda è possibile ricavare con studi scientifici il peso di Neruda alla morte. Ovviamente c'è una forbice, per così dire, è sempre sovrappeso rispetto a tutte le tabelle, a tutte le possibilità, o al massimo è addirittura obeso, quindi cachessia non esiste proprio, ma anche le analisi chimiche lo rivelano. Quindi partiamo dal presupposto: Neruda non è morto per il cancro, è morto con il cancro. E allora comincia a essere evidente che la verità non può che essere un'altra. Ricordiamoci che Neruda è morto 12 giorni dopo il colpo di stato di Pinochet. Era l'uomo più in vista, lui muore alle 22:30 di domenica 23 settembre 1973. Il giorno dopo sarebbe partito per il Messico, dove sicuramente avrebbe potuto capeggiare un governo in esilio. Morto Allende, morto un personaggio popolare come il chitarrista Victor Jara, era l'unico che avrebbe potuto svolgere quel ruolo, capeggiare un governo in esilio. Dicendo questo, e ciò le tracce, anche le testimonianze dell'ambasciatore del Messico che aveva organizzato sul su invito del presidente del Messico Echeverría la partenza, tra l'altro con i dubbi di Neruda che non voleva lasciare il Cile, e poi la decisione finale, ecco allora che abbiamo anche l'evidenza di un possibile movente, se non del movente. Che conti ha fatto il Cile con la figura di Neruda? Non li ha fatti ancora del tutto, perché i negazionisti e i nostalgici purtroppo sono all'opera. Basta dire che sono morto 1973, nel 2004, nel 2009 non viene ascoltato l'autista di Neruda, l'autista degli ultimi mesi di vita, che dice: attenzione, Neruda ha lamentato che gli è stata fatta una iniezione nella pancia e potrebbe essere questa la causa della morte. Lui è convinto che sia questa. Soltanto nel 2011 queste due denunce, che cadono nel vuoto, lui ne fa una terza, ha l'effetto di smuovere l'opinione pubblica. Il magistrato Mario Carrozza apre un'inchiesta, siamo nel 2011, l'inchiesta è ancora in corso, con incredibili ostacoli che vengono posti. C'è un piccolo debito, meno di $40,000, con i laboratori del Canada e della Danimarca che svolgono le analisi per accertare definitivamente che c'è un batterio trovato in un molare colpevole della morte. Proprio analisi sui campioni della terra, della sepoltura, per essere sicuri al 100% di questo. E il governo, nonostante le ripetute sollecitazioni del magistrato, non paga questo, ma di più al servizio medico non paga questa piccola quota di debito, e quindi i laboratori non hanno lavorato fino a lui. In più i campioni della terra custoditi al servizio medico legale erano scomparsi. Per mesi e mesi non si trovavano, anche qui sollecitazione del magistrato per averlo, ricerche, addirittura il servizio medico legale voleva distruggere tutti i campioni disponibili dell'analisi fatta sul corpo di Neruda, vengono ritrovati soltanto quando il magistrato in persona va a fare una perquisizione al servizio medico legale e guarda un po' i campioni rispuntano. Allora questi ostacoli la dicono lunga sul fatto che ancora la verità ufficiale tarda e la comprensione dell'opinione pubblica sul testo più emblematico della dittatura cilena. Dico più emblematico perché stiamo parlando di decine di migliaia di morti, torturati, vittime in ogni modo della repressione feroce che c'è stata. Però ammettere che Neruda è stato ucciso evidentemente costa molto, dato la popolarità che non solo è nel Cile di Neruda, ma è una popolarità planetaria, e questo evidentemente costa fatica ammetterlo, e i negazionisti ci sono ancora, i nostalgici del regime attualmente sono piuttosto forti, e i problemi, come ho detto, sono assolutamente evidenti, ma la verità io ho tentato di ricostruire, e come dice nel libro ci sono almeno due note per pagina, e quindi ci sono tutti i riferimenti possibili, documenti tra virgolette di tutti i tipi. La verità di un libro non ho dubbi, però ci vuole anche la sanzione ufficiale della verità. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più del libro? Sì, certamente, grazie. C'è il mio sito robertippolito.it, e su Instagram e su Twitter ci sono, e quindi sono felice per chi vorrà seguire e chi vorrà entrare in questa storia, che è veramente una storia importante che bisogna conoscere, su cui bisogna lavorarci al di là anche del libro stesso. Un saluto e un ringraziamento all'autore Roberto Ippolito. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, un abbraccio a te, un abbraccio veramente a tutti voi che avete avuto la pazienza e anche la curiosità di ascoltare. Presto, presto. Roberto Ippolito sul suo libro Delitto Neruda, alla Casa delle Letterature a Roma, mercoledì 23 settembre 2020. Con Alessandro Agostinelli, direttore della 15ª edizione del Festival del Viaggio a Viareggio dal 24 al 26 settembre 2020. Ben trovato. Buongiorno. Raccontiamo cos'è questa esperienza. Il primo festival italiano che è nato nel nostro paese sul tema del viaggio. Questa è la 15ª edizione, la seconda a Viareggio. Quest'anno, in tempi di Covid-19, abbiamo saltato le tradizionali sessioni di giugno, cioè a Firenze e a Palermo, per ovvi motivi legati al lockdown che era finito da poco, e poi invece in autunno, adesso dal 24 al 26, come hai detto tu Federico, siamo in Versilia. Il tema, diciamo, di quest'anno, per un festival ridotto ma con alcune presenze importanti, è legato al turismo esperienziale. Come si articolerà? Abbiamo un inizio e una fine abbastanza importanti. Il primo, l'inizio di giovedì 24 settembre 18 al Bagno Balena, sarà una conferenza, un aperitivo di Fabrizio Ardito, che è uno storico giornalista di viaggi, collaboratore storico del Touring Club Italiano, e lui parlerà della fondazione della città di Viareggio. Dici, vabbè, ma è una roba locale, che ce ne frega? No, perché 200 anni fa a Viareggio è nato il primo stabilimento balneare del mondo. La balneazione, il turismo balneare, non tutti lo sanno, nasce a Viareggio nel 1827. Sette anni prima la Maria di Borbone aveva conferito a Viareggio la qualifica di città, e nel 1827 nasce il primo stabilimento dei bagni italiano. italiano, e quindi la bagnazione, come molti sono indotti a pensare, non è nata in Francia ma è nata in Versilia. E poi chiudiamo sabato 26 settembre alle 21 con una chiacchierata a cena insieme al padre della satira italiana, cioè Sergio Staino, che ci racconta che cos'è il genio sostanzialmente, speriamo di riuscire a scoprirlo. Nel mezzo ci sono tantissime passeggiate, alcune veramente molto molto interessanti, per dire una su Mina e Lotta Continua. Il tema scelto quest'anno come nasce? Dal fatto che il turismo sta cambiando, il nostro paese non può contare più sul turismo estivo soltanto, perché abbiamo nei paesi nostri vicini, limitrofi, qualità di servizi, di prestazioni per i turisti che vengono da paesi dell'est, dal nord Europa, e a prezzi molto vantaggiosi. Quindi il tema è quello di andare a fare appunto il turismo esperienziale. Che significa? Significa che una persona che viene ospite nel nostro paese va a beccarsi, diciamo, delle iniziative dove può approfondire, fare una specie di carotaggio di quel territorio, un carotaggio dell'identità di quel territorio, e portarsi a casa non un souvenir ma un'esperienza. Ed è per questo che noi abbiamo, per dire, lo storico Riccardo Mazzoni, che giovedì prossimo alle 23, quindi di notte, parte con una passeggiata parlandoci dei poeti che sono vissuti a Viareggio, ma personaggi fondamentali come, per dire, Rainer Maria Rilke oppure Nietzsche, che è passato da lì, ecco. Così come, per dire, abbiamo questa ciclo passeggiata insieme a due personaggi importanti, uno di ex Lotta Continua, ex consigliere Rai, e un esperto di musica pop. Il tema è la bussola di Bernardini, questo famosissimo locale degli anni 60 a Viareggio, e lì si racconta la storia della ascesa e poi di quando Mina ha smesso di cantare sostanzialmente, perché l'ultimo concerto l'ha fatto lì e poi è scomparsa, è sparita, non si è fatta più vedere, però lì in quel locale fu abbattuto, diciamo, e messo a terra da un colpo di pistola della polizia o dei carabinieri Soriano Ceccanti, un militante di Lotta Continua che era andato lì per una manifestazione cercando di tirare le uova a quelli che entravano a uno dei concerti della bussola. E tante altre cose, facciamo la scalfeggiata con Marzia Stevenson Maestri, cioè una passeggiata a piedi nudi a Viareggio, oppure una passeggiata all'interno dell'architettura Liberty, e altra cosa, un'altra delle passeggiate notturne alle ore 23 con la scrittrice Elena Torre è su una siciliana, catanese per la precisione, e cioè Donna Franca Florio, che nel 1922 era ospite del Grand Hotel Select di Viareggio, e mentre giocava alla roulette i ladri d'albergo gli rubarono tutti i gioielli, e quindi un mistero raccontato appunto di notte in questa passeggiata. Tutte le informazioni sul programma sono sul vostro sito internet? Assolutamente, festivaldelviaggio.it, tutte le informazioni e gli aggiornamenti ora per ora, diciamo, quindi qualsiasi cosa uno voglia sapere sul sito festivaldelviaggio.it lo trova. Sono tutte iniziative gratuite, tranne la cena con Staino ovviamente, e sono tutte iniziative, come si potrebbe dire, covid free, nel senso che sono tutte all'aperto, e insomma speriamo che il tempo regga. Quindicesima edizione del Festival del Viaggio a Viareggio dal 24 al 26 settembre 2020. Un saluto e un ringraziamento al direttore Alessandro Agostinelli. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie Federico, un abbraccio. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.